Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. In Italia portare a casa gli avanzi dal ristorante è ancora un tabù. Solo un italiano su cinque chiede la cosiddetta doggy bag. Uno su quattro, ci dice un sondaggio Coldiretti, si vergogna a farlo. È una cultura che va cambiata all'insegna della filosofia antispreco. Ecco perché siamo felici di raccontarvi un'iniziativa che trasforma la doggy in family bag e vuole rivoluzionare le nostre abitudini al ristorante. In molti lo hanno visitato, ci riferiamo al padiglione di Coop ad Expo 2015 con il supermercato del futuro. Ebbene, alcune di quelle innovazioni trovano ora una prima applicazione in un vero supermercato. Succede a Torino, in pieno centro storico. Nel cuore dello shopping natalizio vi segnaliamo poi una serie di prodotti eclettici che raccontano sperimentazioni tutte nuove nel mondo dei consumi. Dalle scarpe fai da te, da comporre a casa come un gioco per bambini, al fashion bar, il distributore di vestiti in albergo, passando per la cassa Bluetooth indossabile come una borsetta e le magliette personalizzate in base all'umore. Assaggini di carbonara, lasagna e matriciana, il tutto accompagnato da vino rosso. Michelle Obama si è concessa ieri sera un tuffo nella cucina romana, cenando al ristorante Maccheroni a un passo dal Pantheon in pieno centro a Roma. Dalla me se non ti va, me se non ti dà, quello che ti dava prima me lo ridarà. Dallo a me che non ti pentirai, non lo richiederai mai, dallo a me non si sa mai. È sempre vuoto il mio piatto, finisco tutto, sarebbe brutto, dallo a me di certo non lo butto. Non è avanzato quello che mi hai dato. Non l'ho sprecato. Stupì tutti 6 anni fa Michelle Obama quando, in occasione della sua visita romana, al termine di una cena al ristorante si fece impacchettare il cibo avanzato. Certo, un gesto a favore di telecamere per sostenere le campagne antispreco, ma segno di un'abitudine consolidata nella cultura americana, un po' meno in quella italiana, anche se le cose stanno cambiando. E se in Francia la doggy bag è stata ribattezzata gourmet bag, da noi vuole diventare la family bag. Questo è il nome di un'iniziativa lanciata in Veneto dal Ministero dell'Ambiente con la collaborazione di Union Camere Veneto e CONAI, il consorzio per il recupero degli imballaggi, che ha realizzato una serie di contenitori in plastica, alluminio, carta, legno e acciaio distribuiti in un centinaio di ristoranti della regione. Così a TV7 il sottosegretario all'ambiente Barbara Degani in occasione del lancio dell'iniziativa. Quando si produce il cibo si consuma suolo, si consuma acqua, si consuma energia per produrlo, per trasformarlo, per portarlo poi nelle nostre tavole, e molto spesso lo si spreca buttandolo nella pattumiera. Allora abbiamo detto, quando si va al ristorante si potrebbe portarsi via il cibo e lo si può fare in maniera un po' chic, un po' carina. E allora abbiamo pensato di coinvolgere il CONAI, che è il consorzio degli imballaggi, ovviamente Union Camera del Veneto, e in particolare Union Camera ha scelto di coinvolgere tutti i ristoratori padovani per vedere se funzionava questo meccanismo, se funzionava poi soprattutto in questo periodo, che è il periodo natalizio, dove tutti pensano che sprecare cibo sia una cosa che non solo non si deve fare, ma che magari in questo periodo aumenta proprio in vista delle festività natalizie. E quindi abbiamo pensato di dare ai ristoratori uno stock di packaging per far sì che i loro avventori possano, nel caso in cui avanzano nel cibo del piatto, portarselo a casa. Sono stata stupita della grande adesione da parte dei ristoratori di questa iniziativa, che sicuramente si spargerà a macchia d'olio nel nostro territorio nazionale. Mi manca un chilo di pace integrale e 2 etti di comprensione. È un cartone d'amore a lunga conservazione. Non rimane che fare la spesa, continuare a pagare. In milione e 760.000, tanti sono stati i visitatori per la precisione, avete provato a fare la spesa nel supermercato del futuro firmato COP ad Expo 2015. Ora alcune delle idee messe in scena nel padiglione trovano una prima applicazione pratica. Appena aperto a Torino, in Galleria San Federico, siamo in pieno centro storico, il Concept Store Fior Food, un nuovo modello di supermercato, 1300 metri quadrati con caffè, bistrò, ristorante, enoteca e libreria. Ce lo siamo fatti raccontare da Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop. Il richiamo alla tradizione è stata, diciamo, la leva che ci ha fatto muovere nella direzione che abbiamo intrapreso, perché stiamo parlando sostanzialmente del cuore della città di Torino, stiamo parlando di un luogo storico amato dai torinesi e stiamo parlando di un luogo che fisicamente è collocato a 100 metri in linea d'aria da dove nacque la prima cooperativa di consumo, il primo spaccio cooperativo, e quindi l'idea di portare nel cuore della città, a pochi metri da dove nel 1854 è nata la cooperazione, il modello più evoluto di quello spaccio ci è sembrata una sfida importante da cogliere e abbiamo realizzato questa iniziativa che è molto apprezzata dai torinesi. La vera scommessa è stata far incontrare delle idee nuove con dei locali così storici e così vecchi. Ecco perché non abbiamo proposto, diciamo, una struttura di tipo tradizionale, ma abbiamo proposto un luogo dove potessimo raccontare il cibo, la sua evoluzione, farlo assaporare, creare le condizioni per un incontro fra i consumatori e creare soprattutto le condizioni perché il meglio della tradizione di Coop venisse esaltato in un negozio che ha come peculiarità quella di vendere esclusivamente prodotti a marchio Coop. Il 75% delle referenze sono prodotti a marchio Coop. Veniamo alla tecnologia. Quali sono gli accorgimenti del supermercato del futuro che hanno trovato una prima applicazione? Sì, noi abbiamo recuperato dalle idee che abbiamo esposto all'Expo, diciamo, l'utilizzo della tecnologia per aumentare la trasparenza verso i consumatori nel momento in cui li invitiamo a un atto di acquisto. Quindi c'è l'utilizzo di tablet interattivi dove si possono indagare le caratteristiche dei vari prodotti. C'è per la prima volta il libro delle caratteristiche degli alimenti con tutte le indicazioni sugli allergeni presenti nei vari prodotti. Ci sono una serie di grandi monitor che accompagnano il consumatore nella visita del negozio, in cui si narra sostanzialmente la storia della Galleria del Lux, la storia della nostra cooperativa e, diciamo, i valori a cui noi facciamo riferimento. E infine c'è all'interno dello spazio dedicato alle librerie la possibilità di utilizzare quella che è stata definita Expo Book Republic, cioè la possibilità di scaricare online i testi che non sono fisicamente presenti all'interno del punto di vendita. Il supermercato sta attraversando una grande trasformazione in questo periodo. Gli ipermercati, le grandi superfici sono in crisi, sono entrati in crisi, si è recuperato il senso anche del vicinato. Voi che tipo di riflessioni avete fatto per un punto vendita come questo, che riporta anche, possiamo dire, il gesto della spesa quotidiana in pieno centro? Sì, in effetti noi abbiamo individuato in questo tipo di modello, diciamo, uno strumento di riflessione per avvicinare sempre di più la spesa al consumatore. E le grandi strutture che negli anni 70-80 sono nate a corollo delle città sono parzialmente in difficoltà, sono parzialmente in crisi. Noi abbiamo ad esempio adottato una strategia di ridimensionamento delle grandi aree per concentrarci meglio sull'offerta dell'alimentare e dare spazio all'interno della nostra offerta a quei prodotti che stanno crescendo nel consumo dei consumatori. Penso ai prodotti biologici, ai salutistici, a quelli dedicati alla cura del corpo e quant'altro. È evidente che il presidio delle grandi città e nel centro delle grandi città deve mettere assieme alcuni fattori, sicuramente la sostenibilità dell'investimento, sicuramente c'è il tema degli affitti che nei centri storici sono proibitivi anche per grandi catene come quella che io rappresento. Bisogna riuscire a fare un'offerta che sia innovativa, perché naturalmente, parlando dei centri di città, parliamo di luoghi che molto spesso a una certa ora si spopolano e quindi devono avere un'offerta che li renda attrattivi, un'offerta che sia fruibile per persone che hanno poco tempo da dedicare alla spesa, e quindi percorsi veloci, percorsi rapidi e un negozio, se posso dire, intuitivo dove il consumatore è facilitato dalle politiche di acquisto perché può concentrarsi utilmente su quello che davvero desidera comprare, non è, diciamo, un po' travolto da un'offerta che a volte disorienta e rende il momento della spesa un po' più caotico di quello che potrebbe essere. Siete in cerca di idee per Natale? Restate con noi perché tra pochissimo, nella seconda parte, parliamo di consumi eclettici, subito dopo la pausa. Stufe, caldaie termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Essere e Avere. Ok, beh, grazie per la lezione, ma ho preso per te e Leonard qualche sciocchezza, quindi la metterò sotto il mio. Aspetta, mi hai comprato un regalo. Perché hai fatto una cosa del genere? Tesoro, non fa niente, non devi darmi nulla in cambio. Ma certo che devo, è alla base di questa usanza che io ora debba uscire a cercarti un regalo di valore proporzionato e che rappresenti lo stesso livello percepito di amicizia simboleggiato dal regalo che tu hai fatto a me. Non mi stupisce che il tasso di suicidi vada alle stelle a Natale. Focus sui trend. I consumi eclettici, i protagonisti del focus sui trend di questa settimana. Sull'onda degli acquisti natalizi, Sabrina Donzelli di Future Concept Lab è andata per noi a caccia di novità e stravaganze. Ciao Sabrina. Sì, partirei con una serie di prodotti e poi anche servizi che cavalcano questo eclettismo di immaginario, di processo produttivo, di design. Partiamo appunto con Vibram Furoshiki, l'azienda italiana Vibram, che conosciamo da decenni per suole in gomma per calciatura, ha lanciato recentemente una nuova linea di prodotti con la promessa di risolvere, diciamo, definitivamente il problema della calzatura comoda, di una calzatura che si adatta perfettamente al piede. Le scarpe Furoshiki sono appunto state disegnate per avvolgere il piede come dei drappi di stoffa. Il nome prende spunto al panno di stoffa giapponese Furoshiki, che solitamente veniva utilizzato e talvolta viene ancora utilizzato per impacchettare e trasportare qualsiasi tipo di oggetto. Ecco, queste scarpe disegnate da Masaya Yashimoto hanno un aspetto, direi, inusuale, curioso, che sicuramente non passa inosservato. Sono dotate di una suola anatomica e fasciante e questi tessuti possono essere avvolti e chiusi con il velcro in forme personalizzate, direi, e si adeguano in modo assolutamente ergonomico a ogni forma e a ogni movimento dei piedi. Vibram, tra l'altro, lo ricordiamo, Sabrina, aveva già stupito con le Five Fingers, le scarpe dalla forma a guanto. Anche queste sono veramente particolari. Invitiamo gli ascoltatori, come sempre, ad andare a vedere la gallery sulla nostra pagina Facebook. Ancora scarpe, vedo, per il prossimo caso. Scarpe fai da te. Scarpe fai da te, l'hai detto, è proprio il caso di dirlo, scarpe che vengono consegnate in una forma bidimensionale per raggiungere poi la forma a tre dimensioni per essere indossate con un tocco di creatività molto molto originale. Pipac è la startup ungherese che le lancia, una collaborazione con un designer inglese, Super Modan, il designer Rob Lowe chiamato Super Modan. Praticamente si tratta di un foglio di cuoio e di gomma, cuoio per quanto riguarda la parte vera e propria della scarpa e gomma per la suola, che deve essere ritagliato secondo la forma, come un gioco di bambini, secondo la forma appunto descritta, secondo i contorni, per essere poi assemblato dalla persona, previsto nella versione uomo o donna, anche questo con un costo, direi, accessibile, attorno ai 150 euro, per cui l'idea di lavorare con l'originalità su un oggetto di uso quotidiano stimola l'iniziativa personale e l'accessibilità di un prodotto anche di design. Beh, sicuramente un regalo originalissimo. Grandi protagonisti dell'acquisto, degli acquisti del periodo, gli accessori, appunto, anche quelli tecnologici. In questo caso che cosa hai scelto? In questo caso ho scelto Brionvega Wear It, che è il primo diffusore Bluetooth indossabile, perché di fatto si tratta proprio dell'idea di indossare la musica. Viene disegnato da Michael Young e nasce da un'interpretazione del classico Brion Vega TS-207, la vera e propria icona degli anni 60. Questo diffusore sonoro, una borsa in effetti, si distingue non solo per questo stile particolare, per questa icona di riferimento, ma anche, come dicevo, per il concetto di musica indossabile, una anteprima assoluta nel mondo dell'audio, direi anche nel mondo dell'accessorio, delle borse. Quindi non è soltanto un semplice speaker, in questo packaging è presente anche una borsetta custodia che lo trasforma in un accessorio di moda. Anche qua è possibile scegliere colori diversi, la borsa può essere accessoriata, è dotato di un viva voce con microfono per rispondere alle chiamate e una volta terminata la conversazione la musica riprende automaticamente e segna la colonna sonora della persona. Gli ultimi due casi riguardano la moda con due declinazioni molto particolari che raccontano anche le sperimentazioni in termini di servizio per il mondo della moda, non solo di prodotto. Certo, parliamo di due retailer, di due catene di distribuzione legate al mondo della moda, per vedere come anche questi modelli di innovazione che rompono gli schemi con queste strategie, diciamo, spiazzanti, ma che sono alternative, complementari al percorso, come dire, dell'azienda e delle proposte, possono non solo incuriosire, ma essere anche, come dire, degli piccoli incubatori di novità, piccoli incubatori di innovazione. Partiamo con Pinky, che è il retailer francese conosciuto nell'area della fast fashion, che ha lanciato recentemente all'Hotel Banks ad Anversa questa novità. Si chiama Mini Fashion Bar. Tutti noi siamo abituati ad avere nelle nostre stanze d'albergo un bar dove prendere prodotti, bibite, snack. Ecco, in questo caso c'è la possibilità di avere accesso a dei prodotti, a degli accessori, a degli indumenti che possono esserci utili nel nostro soggiorno. Magari ci siamo dimenticati di comprare un paio di jeans o una maglietta per un'uscita tranquilla con amici, oppure abbiamo voglia di fare un giro in bicicletta e non abbiamo l'abbigliamento necessario, o magari è prevista una serata elegante con degli amici. Ecco, l'idea di avere un menu con tutti i codici di riferimento per avere accesso, pronto accesso, quindi veloce, a una serie di indumenti e di soluzioni di pronto uso, permette di avere in camera direttamente, come un bar, un mini bar, quindi un nostro armadio, un nostro accessorio personalizzato e personalizzabile, quindi come prodotto e anche come servizio. Tra l'altro vedo declinato anche in base alla città di riferimento, quindi alla città, al tempo, alle occasioni di svago, agli eventi previsti in quella settimana, in quei giorni del soggiorno. Ecco, ho appena detto che è stato lanciato ad Anversa, ma arriverà anche a Milano, così come Barcellona, Berlino, Parigi e Londra, le prossime città con una rete di hotel collegati. Il secondo caso, sempre nel mondo del retail, ci porta in Giappone. Parliamo di Uniqlo, che è la catena nata nel 1949 nel sud del Giappone, ma poi diffusa in tutto il mondo, la catena che disegna, produce e distribuisce abbigliamento casual per uomo, donna e bambino. Lo conosciamo per un design essenziale, quindi basic, ma di alta qualità. Che cosa ha lanciato recentemente Uniqlo? Questa volta in Australia. Ha lanciato questo U-Mod. In alcuni negozi di Sydney è stata lanciata questa tecnologia che ha permesso ai consumatori di trovare la t-shirt perfetta, la t-shirt che si abbina, che si integra al proprio umore, al proprio stato d'animo. Un processo semplice, ci sono delle postazioni all'interno dei negozi, il cliente indossa un auricolare che ne misura le onde cerebrali attraverso un biosensore, mentre vengono mostrate una serie di immagini fisse e anche dei video su un grande schermo. Le reazioni neurologiche, quindi qui siamo nell'ambito delle neuroscienze, neuroscienze, come dire, al servizio della moda, al servizio della creatività e del retail. Ecco, queste reazioni neurologiche sono sovrapposte a un algoritmo per collegare al meglio il design con l'umore dell'utente. Uniqlo ha realizzato una mappatura su 600 tipologie di magliette da abbinare con 10 tipi di umori, quindi la calma, la rabbia, la felicità e quant'altro. Una maglietta sintonizzata sulle proprie onde cerebrali, mi viene in mente il film Inside Out. Abbiamo 30 secondi per chiudere. Sabrina, che cosa ci dice questa ricerca dell'eclettismo, della sperimentazione nei consumi? Guarda, sicuramente sono nuovi standard estetici, funzionali per garantire una serialità creativa e divertita. Ma noi vogliamo abbinare questo a quello che è la profondità e il piacere nelle occasioni del quotidiano, sempre più presente su livelli diversi nella vita di tutti noi, e anche l'ambito del consumo, possiamo vedere, registra molti casi, e quindi quanto che riguarda il corpo, l'abbigliamento, la casa, ci dà molti segnali di interesse. Oggi abbiamo parlato di moda e vogliamo sottolineare come, al di là dell'eclettismo curioso dei modi, delle mode che potrebbero a volte sembrare fine a se stessi, questo scenario, questi casi ci parlano della straordinarietà del quotidiano, della freschezza anche di un'intensità quotidiana che può essere rigenerata anche attraverso il gioco mediatico e commerciale, se vogliamo, per una qualità del nostro rapporto con il quotidiano e con i nostri oggetti del quotidiano. Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima. Grazie a te, a presto. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo Francesco Morace. Ben ritrovato. Buonasera Maria Luisa e a chi ci ascolta. Il tuo spunto di oggi? Il mio spunto di oggi è un commento al rapporto sociale Censis, in particolare un'espressione che ha molto colpito e che è quello del letargo esistenziale. Un'Italia che è ancora un po' sonnecchiosa, con però dei segnali interessanti di ripresa. In questi anni di crisi mi è venuto in mente, è diventata molto di moda la parola resilienza, una parola che deriva dalla scienza dei materiali, significa insomma che si assorbe l'urto senza spezzarsi, quindi è diventato un po' il simbolo di questa crisi, ecco. Sì, e soprattutto molto declinata sulla cultura italiana, no? Che ha questa abitudine di apparentemente sonnecchiare, ma poi di reagire mai in modo frontale, diretto, no? Che è il motivo per cui non siamo bravi nelle guerre, siamo molto più bravi nelle mediazioni e nel cercare comunque delle risposte. Quello che comunque il Censis ci racconta è che esiste un resto dell'Italia che invece sta reagendo in modo deciso, un dato su tutti, pochi lo sanno, ma l'Italia è il paese in Europa che ha il maggior numero di start-up. Ecco, startup, ma non solo, ad esempio anche i Fab Lab, lo abbiamo raccontato, in Essere Avere, quindi i luoghi per la manifattura digitale, hanno numeri da record in Italia. Molte grandi eccellenze di innovazione nel mondo parlano italiano, hanno la firma italiana. È un mondo che bisogna raccontare di più. Bisogna raccontarlo di più e anche capire le ragioni di questo successo. Nei Fab Lab riusciamo a mettere insieme la nostra tradizione tipicamente artigianale, che è il saper fare anche manuale, con le nuove dimensioni tecnologiche. Quindi io credo, e questo lo dice anche il Censis, che le nuove generazioni, ma proprio i giovanissimi, quindicenni, diciottenni, possano davvero aprire nuovi orizzonti per un paese che a volte è diffidente nei confronti dell'innovazione e delle nuove tecnologie. A domenica prossima, Francesco, grazie. Grazie a te, Marisa. Grazie anche in regia a Carmelo Lauricella. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.